Sì, pensava di non farla, il comune e anche la regione pensava di non farla, di cavarsela con la conferenza dei servizi fatta in aprile a tamburo battente. Si tenga conto che anche le date di tutte le scadenze amministrative del comune sono state concordate fra gli uffici della direzione generale del comune e le società e i fondi stranieri, per cui hanno deciso che a un certo punto ci doveva essere la conferenza dei servizi che doveva durare da quel giorno a quell'altro giorno e quindi hanno fatto in fretta tutto quanto evitando di fare la valutazione di impatto ambientale che è prevista non per lo stadio solamente, ma su tutta l'area. Stiamo parlando di 28 ettari di terreno in San Siro. Bisogna fare una valutazione di impatto ambientale su tutta l'area di San Siro, non solo per lo stadio. Questa cosa qui in particolare compete alla regione non l'ha fatta perché l'assessore regionale al territorio è anche consigliere comunale di Forza Italia e ha fatto mancare la sua presenza in maniera tale che passasse il provvedimento, perché il provvedimento di vendita dello stadio, dell'area e di comprensiva anche di 100.000 metri quadrati di costruzione consentito dal comune, cioè dentro in questo pacchetto offerto dal comune, tutto questo è passato grazie al voto di Forza Italia. Ecco, e invece la valutazione di impatto ambientale è anche una delle richieste dei comitati che ravvisano poi degli impatti. Da sempre l'abbiamo chiesta, pensi solo che devono scavare 1.700.000 metri cubi solo per le nuove costruzioni. Solo la demolizione di San Siro sono 180.000 metri cubi di ferro e di calcestruzzo da demolire. Sono previsti, non è che li abbiamo previsti noi, li hanno scritti loro quando hanno presentato un documento al cosiddetto dibattito pubblico, che in realtà era una burla. Hanno detto che ci sarebbero stati solo per la costruzione 180.000 viaggi di camion per portare in materiale di costruzione, ci sarebbero stati 21.000 camion per la demolizione, 148.000 camion per lo scavo e tutto questo in 80 mesi con turni di lavoro, 7 giorni su 7 su 3 turni di lavoro. Immagini l'impatto ambientale che ha questo sull'aria, sulla salute dei cittadini della zona. Sono dimensioni catastrofiche per quanto riguarda tutto lo sforzo che si è fatto per contenere le emissioni di anidride carbonica, eccetera, eccetera, ma non si è provveduto a fare nessuna valutazione seria. Pensa che invece qualora, quando verrà svolta, questa valutazione potrà condizionare anche il progetto stesso? Ma certo, cioè io sono convinto che, data la dimensione dell'impresa, una valutazione di impatto ambientale affidata a terzi, cioè non direttamente agli stessi, perché la cosa curiosa è che poi hanno messo dentro nell'accordo di compravendita che il comune pagava le bonifiche delle aree, solo che le bonifiche delle aree, il calcolo del costo delle bonifiche delle aree, quanto c'era da bonificare, le ha fatte la società Milan e Inter, cioè i diretti interessati all'operazione. Non c'è stato un ente terzo che abbia fatto per esempio le valutazioni sulle bonifiche ambientali. Per cui è evidente che se ci sarà un'interlocuzione seria di valutazione di impatto ambientale, come previsto dalle direttive europee, come previsto dalla legge nazionale, deve essere chiaro che la legge sugli stadi non è superiore alle direttive europee del Parlamento e della Commissione europea in temi di impatto ambientale e queste valutazioni di impatto ambientale sicuramente porteranno un ridimensionamento drastico di tutta questa operazione che non sta in piedi da nessun punto di vista se non quello degli affari di un'operazione immobiliare, punto.